c'hai, che brutto. Piccolino. Mamma mia, che brutto è. Adesso glielo tolgo, dai. Se è brutto lo tolgo, perché io non lo sento. Io non lo so, quindi quanto a me, nel senso che stai usando una radio di quelle cinesi, capito? Yeah. Stavo provando come usciva e ho detto vediamo come si leva questo accidente. Guarda cosa c'è Mario di Poco Torres, sono che stai usando una radio di quelle cinesi, sapete, professionale senza bip, ma che non sia un bip di quelli tipo il Galaxy, capito, che si vede che è un bip, ma dico a poche feughe. Aspetta che attivare e disattivare il Roger Beep, vediamo un po', tenere scan, aspetta un attimo. Oddio, oddio, non ti ho mai sentito in questo beep, bruttissimo. Guarda, sei uscito adesso? Sì, adesso non c'è più. Voilà, tolto. Sì, l'avevo inserito dall'altro giorno, siccome io non lo sento, no? Ed ero convinto che fosse andato via, in effetti c'era un'icona piccolina e invece adesso è andata via anche l'icona, quindi bisogna premere, c'è un tasto scan da tenere premuto e quindi mi appare sia il Roger Beep che pure quello per i tasti, capito? Sì, però è molto brutto, non è un beep bello. Sì, lo so, perché l'avevo sentito quando c'avevo la radio portatile tempo fa e neanche me lo ricordo come fa. Sembra una trombetta, qualcosa del genere. Ho capito, infatti già l'ho tolto. Sto un po' smanettando con la radio, perché siccome c'era il QRM alto, no, prima, e quindi c'era anche la regolazione, l'attenuazione di quel segnale lì, del guadagno, diciamo, però poi non senti più i segnali deboli. Come sei a casa? Finito di lavorare? No, oggi sono di riposo, oggi e domani. Niente, battagliando con l'assistenza tecnica perché mi si è bucata la caldaietta a gas, di quelle nuove che sono a condensazione, no? È comprata meno di 2 anni fa ed è ancora in garanzia. Quando sentono che è in garanzia e si è bucata, sembra quasi che facciano di tutto per non venirci. Non so, sì. Io quando sono arrivato qua che era finito l'impianto, ho chiamato per il collo, sì, vediamo, no, ascolti, l'unica volta so, non venite oggi a collo la caldaia, se non venite oggi, togliete la portate via, come si venite adesso, e me la portate via, capito, non ve lo dico più, se non venite oggi a farmi il collo, venite me la portate via, staccate tutto e portatevela via, non vi sono giunti. Io purtroppo sono così là, io ho chiamato da venerdì praticamente, siamo da venerdì senza l'acqua calda, ho chiamato chi aveva l'assistenza e veniva una volta all'anno perché aveva il contratto con me per 80 euro l'anno, veniva una volta all'anno, mi puliva gli ugelli, tutti gli spruzzatori del gas, capito, e poi se ne andava. Quest'anno non è venuto, allora l'ho chiamato, ho detto così, dice io vengo perché sono, lei è stato per tanti anni un mio cliente, però non ho più l'assistenza dell'Ariston, quindi mi ha visto la caldaia, mi ha detto è bucato il serbatoietto sopra, quindi l'acqua è scesa giù e le ha bruciato la scheda tecnica, la scheda elettronica, quindi ha richiuso tutto, lei non mi ha chiamato, dica che mi ha chiamato solo e che io gli ho detto che non ho più l'assistenza, si faccia dare da chi ha comprato dal negozio da Marano la caldaia e mi danno il nome di quest'altro. Chiamo questo qui da venerdì, dice mi chiami lunedì perché adesso sono a Vozzieri, sono fuori sede, lo chiamo oggi e mi fa, dice guardi oggi sono a casa, non mi posso muovere, io per essere discreto non gli ho chiesto che perché non si potesse muovere, dice la chiamo stasera o domani mattina e le faccio sapere, adesso aspetto stasera se mi chiama, domani mattina se non mi richiama richiamo il negozio e gli dico che chiamo la guardia di finanza, perché questi fanno di tutto per allungare così ti scade la garanzia, capito? Sì. Ma quello non è che sacchetti, no, quello che c'aveva prima l'assistenza, quello che ha fatto si chiama Abidau e non, penso che non sia neanche al centro, però questo è sempre venuto, capito? Finché aveva l'assistenza lui andava tutto bene, adesso l'ha mollata, l'hanno data a quest'altro, però quest'altro io non l'ho mai nemmeno visto in faccia, capito? Adesso aspetto pazientemente qualche altro giorno, vedo se non mi chiama domani mattina, lo richiamo e gli dico che lui sta lasciando una famiglia di 4 persone senza l'acqua calda in questo periodo di freddo, a vedere cosa devo fare. Perché è veramente vergognosa la presa di genere. No, io ho messo in chiaro le cose da subito, perché l'ho chiamato, guardate che io i primi di aprile vado ad abitare, i lavori sono finiti, l'impianto è finito, tutto a posto, venite qua a lei. Ci vediamo, se riusciamo, se qui che la toccava, non ho capito. Era ad aprile un freddo, faceva ancora. Guardi, io vi do tempo a 24 ore, se voi non siete qua con la lampada a caldaia e ad accenderla, venite pure a prenderla, portarvela via, io chiamo un'altra azienda e mi faccio fare l'impianto nuovo. No, ma qui, le sto dicendo, se lui non vi entro 24 ore, non siete qua, portatevi via la caldaia. Ok, e faccio la disdetta del contratto di manutenzione. Sono venuti la mattina alle 9, erano già qua. Perché magari gliel'hai messa su quel piano lì. Adesso io pazientemente aspetto stasera e domani mattina a mezzogiorno, se non mi chiama a mezzogiorno, entro mezzogiorno lo richiamo io e gli dico che assolutamente deve venire entro domani sera, massimo dopo domani mattina, dopodiché, perché praticamente l'altro mi ha detto che in questi casi la caldaia va sostituita, capito? Perché costa più aggiustarla che rimetterne una nuova, essendo in garanzia loro me ne dovrebbero dare una nuova. Certo, non ci mica devo preparare quella, volevano staccare da portare via e trovarti quella nuova. No, io c'ho quella della Silver, l'impianto l'aveva fatto tutto Sciacchetti, Giancarlo, che tra l'altro abita 100 metri da me, quassù, quindi ci conosciamo molto bene, anche lui adesso non ce l'ha più la Silver, capito, però nonostante non abbia più la Silver, qualsiasi problema abbia, per il momento problemi non ha, però qualsiasi problema abbia, mi ha detto avvicinati a casa, al telefono, mi chiamami, che ti mando il tecnico, non ti preoccupare, capito? Perché è una persona seria, una persona che ha fatto un impianto a bocca, veramente. Questo invece, capito, si gridano di avere a che fare con un pupazzo. Dopo 24 ore di tempo, adesso sono venuti. Perché guardi che grazie a Dio le mani ce le ho. E ho lavorato per 35 anni in mezzo tra idraulica e acqua, quindi ci metto poco a chiudere l'impianto e staccare la caldaia e buttarla fuori di strada. Dice, no, ma male, ma qui, ma là, ah no, tu sei convinto di no. Allora tu domani mattina non venire qua con la mia caldaia, che poi io te la porto davanti al tuo negozio la caldaia, col contratto. Hai fatto bene a fare così, perché se no questa gente, se non la tratti così, sembra che se la prendano troppo con comodo. Io questa perché è ancora in garanzia, altrimenti se mi avessero detto è bucata quello che ha, l'avrei tolta, scollegata, tolta, ne avrei preso già un'altra e piazzata, perché già me lo so fare anch'io a piazzarla. Poi con la prima accensione devi chiamare quelli dell'assistenza, no? Perché ti fanno tutte le regolazioni e te la fanno partire, però l'installatore solitamente te lo manda all'assistenza, ti dice no, noi facciamo solo l'assistenza, per quello mandiamo un installatore. E io l'altra volta gli ho detto no, non si preoccupi, tanto è facile da piazzare, praticamente la devi solo agganciare al muro, collegare il tubo dell'acqua d'entrata, poi c'è il tubo di uscita dell'acqua calda e il tubo del gas, non è che ha niente. Dopodiché aspetti che vengano loro e gli comunichi, guardi che è installata la caldaia, vengono, fanno la prima accensione e parte. Il problema che non la posso nemmeno levare, perché essendo in garanzia, se io la tocco non me la pagano più poi, capito? E ti fanno passare da un giorno all'altro così, capito? E tu devi aspettare la comodità loro, questi bastardi. Mi sa che così non la facciano mettere dentro anche la mia prima installazione. C'è l'impianto nuovo, hanno terminato a marzo praticamente. Tutti i collegamenti, tutto l'impianto hanno terminato a marzo dell'anno scorso. Io ad aprile sono venuto da l'ascensione. Mi stavano portando di giorno in giorno, secondo lì. Forse lei non ha capito niente. Ho firmato il contratto a marzo. Adesso lo straccio, mi straccio tutto. Non ho altri, venite e portate via la caldaia. Sono venuto lì domani mattina alle 9 e ero qua. Hai visto? Io te l'ho detto domani, perché questa caldaia l'avevo pagato ancora lo scontrino, 570 euro 2 anni fa. Adesso sono anche aumentate a costare penso anche sopra i 600, quindi non è che sono due soldini, capito? Quindi dal momento che una volta che mi si rompe una cosa che in garanzia non ne ho mai sfruttato, adesso lo voglio sfruttare, capito? E mi scade a febbraio però la garanzia. Attento, perché se ti scade la garanzia si butti due. Come hai detto tu, stavo cercando di fare il gioco, capito? No, la mia adesso ad aprile vuole venire a fare il primo controllo, il primo check, vediamo se è tutto a posto, ma sta scaldando di brutto, sta andando benissimo. Poi l'accensione, la mia di ultima generazione, quella non tocco niente, praticamente il quadretto nel punto dove l'hanno messo loro, rimane sotto il cavallo, io piglio un pulsante, tutta elettronica, capito? Quella della Silver, adesso mi ricordo che tipo sia della Silver, comunque abbastanza grossa, e c'ho il telecomando, con piglio e non esco manco fuori. Mi avvicino al vetro della porta, piglio e parte da sola, capito? Quindi adesso lo devono venire per fare il primo controllo e il primo check, mi avete un check-up per vedere se tutti i parametri delle centraline, del coso, della... ecco, su appunto la centralina, ecco, che comanda tutto. E poi c'è il timer che gestisce la situazione. Io lo sono fatto mettere, inizialmente l'avevo fatto mettere alle 11, perché c'era molto freddo, allora insomma, adesso l'ho abbassato, l'ho messo alle 10, si spegne automaticamente. Però attento, perché se scade la garanzia si è fregato, minacciali, come ho fatto io, diglielo chiaro e tondo, o venite, se no la staccate e la portate via. Già ci sono anche le telefonate, già rimane traccia. Io ho chiamato il negozio di Mara per farmi dire chi era che faceva l'assistenza Ariston, perché il vecchio mi ha detto che non la faceva più, per cui ho fatto così. Adesso aspetto 2 giorni, dopodiché lo richiamo e gli dirò se non viene, io ho un problema di garanzia che può scadere, non può scadere, per cui io sospetto che qua la Tachikova è li chiamo il 117. Sì, perché questa gente già lo fa, anche se loro ti dicono cosa c'ha la caldaia, gli ho detto sta perdendo acqua, l'acqua è caduta evidentemente sull'impianto elettrico interno e ha bruciato la scheda, perché non mi si accende più il display. Io c'ho un display dentro casa, no, dove ti regoli la temperatura oppure la fuoriuscita dell'acqua, come la vuoi, come non la vuoi, se vuoi versione vasca da bagno oppure solo versione doccia. E invece tutto spento, e quello là mi ha detto no, perché come praticamente è scesa l'acqua ha bruciato pure la scheda elettronica, e solo la scheda elettronica mi ha detto che costa 180 euro più tutto il serbatoio su che si è bucato. Dice ci vorranno più di 400 euro aggiustarla questa qua, e a quel punto dice non l'aggiustano nemmeno quando il danno è così grosso, capito? No, viene fatta una nuova, assolutamente, la mia costa un po' di più, avevo solo la caldaia senza l'impianto lavoro, ho speso 650-700 euro, una cosa leggera, poi vabbè tutto l'impianto eccetera, però tieni d'occhio, perché se ti scade ti sto dicendo il contratto, se butti due, anch'io sì, c'è la centralina simile a quella, col display e tutto, però esterna, capito? Mi ha telecomando diretto. Sì, no, questa è più piccola perché io la utilizzo solo per l'acqua calda sanitaria e basta. Poi a casa l'impianto di riscaldamento ce l'abbiamo a gasolio, capito? È centralizzato, quindi il riscaldamento quello è a posto, è solo l'acqua calda che ci manca, quindi se ti devi fare la doccia te la devi fare fredda. No, io ho acqua calda e riscaldamento interno, basta poi l'impianto a gas per la cucina, quello è normale, ci sono l'acqua fa anche da la utilizzi anche per riscaldamento, così là. Solo riscaldamento, l'acqua calda e basta. Il resto è impianto a gas per la cucina, quello normale con due bomboloni fuori che li inverto. Ne ho due per comodità, capito? Però è così. Ecco, no, perché io praticamente ho il gas Medea, sul terrazzino c'è il contattore ed è collegata lì. In passato avevo i bomboloni anche io, capito, quando avevo altri tipi di caldaie a gas. Queste sono a condensazione, comunque fanno sempre a gas con l'aria propanata e funzionano bene. Finché funzionano, guarda, niente da dire, perché ti puoi fare tutte le docce che vuoi, c'hai sempre l'acqua calda quanto ne vuoi, ma quando si bucano così e ti mandano in tilt tutto il sistema elettrico ed è inutilizzabile, capito? Ma io non ho gas, sto dicendo che io l'impianto a gas separato dalla caldaia, cioè le bombole normali sono fuori dal torrido con l'impianto per la cucina, e quella è una cosa. La mia caldaia è idro, va a gas e a pellet, capito? Quindi io uso i termosifoni, io ho la pellet, non uso gas. Sì, ho capito. E di quella ne sta vendendo una un mio amico a pellet, perché lui ha usufruito del 110%, praticamente gli hanno messo tutto l'impianto fotovoltaico, perché ha una casa in campagna grande, aveva una tettoia predisposta già per quello, ha fatto la casa nuova e quindi gli hanno fatto tutto l'impianto e praticamente adesso va solo a elettrico, e quindi la caldaia che aveva così la diciamo scollegata, e adesso se la vuole vendere e lo stesso lui bruciava pellet e andava bene come caldaia, però mi aveva detto. Sì, anche a 90 termosifoni non si possono toccare, l'ho acceso da un'ora già, siamo a 20, quasi a 23 gradi, eravamo a 18, fatto il conto, ma la sera tra un paio d'ore qua siamo già a 25-26 gradi. Si sta benissimo, no, e mi ha portato un bel quella che la vende, deve trovare uno che la compri, 4.000 euro costa a me una caldaia idro. E lui penso che la stia vendendo intorno ai 2005, perché ha detto che l'aveva pagata quasi 5.000 e l'ha usata solo 2 anni, è praticamente nuova, l'ha usata solo a pellet, mi ha detto che non ha messo altre cose, che se no i residui sporcano troppo, quindi e la vuole vendere intorno a quella cifra lì, intorno ai 2005. Ho detto sicuramente se qualcuno ha la casa indipendente che vuole una caldaia del genere, che ha bisogno di una caldaia del genere nuova, magari se trova e vede la tua, l'ha messa su subito, mi sa che mi ha detto così. Quanti kilowatt è? Una 13.000, 14.000, capito? Costa così, 4.700 costa, capito? Ed è praticamente collegata con la caldaia che c'è fuori, per i termosifoni. Anziché gas va a pellet, capito? Ha un bel impianto, veramente un bellissimo impianto. E bisogna fare, se la comprano, il prezzo è buono, perché costa 5.000 euro, costa sì. Sì, no, anche lui la usava per il riscaldamento e ha una casa su un piano, mi sa che ha 120 metri quadri, capito, e la usava per quell'appartamento lì, diciamo, e vive vicino a Selle Mosca, lui in quella zona lì, si chiama Tanca Farrà, la zona dove abita lui, capito, perché c'era andato. Sì, la conosco tutta quella zona, Tanca Farrà, Montanas, sì, conosco perfettamente, conosco molto bene quella zona, anche perché ci ho lavorato lì tra Santa Maria e la Palma, tutta quella zona lì, capito, tutta quella zona che fa appunto la sale due mari sino a Fertiglia, ci ho lavorato lì, tutta la zona di Arenoso, tutta quella zona lì. Va bene, non è entrato nessuno? Lo so, io avevo acceso e non ho sentito nessuno prima, non so se ci sia qualcuno che vuole entrare in ascolto. Ma no, boh, non lo so, ti ho sentito il bip, anzi ovviamente mi sembrava Mario perché c'è lo stesso bip, ho visto il segnale 9.40, allora ho capito che è tu. Molto bene, vabbè Carlera, io mi allontano un attimo che ho ancora alcune cosette da fare, poi ci sentiamo dopo, che intanto sono 5:30, quindi a più tardi. Ci sentiamo dopo, anche io mi metto a fare qualcosa adesso. Se ci sentiamo dopo, già lascio acceso qua, dopo, ciao. Via, a dopo. Questo qua, vediamo, negativo, sì. dentista. Ma perché 50 anni non potevi fare nulla? Beh, certo. Lui se ne è arrivato apposta, siccome stava aspettando quella che prende gli appuntamenti, no? Mi ha detto, Lu, prima momento ti metto questa data qua, 12 gennaio, poi se c'è qualcosa prima già ti avverto. Sono arrivato apposta, mi dà di Londra, zicco, fit. E il 12 non ci potevo andare, mi sfiga di merda. Così guarisco già, io non guarisco più. Ma c'è una persona che si chiama Antonella? Blu. No, quella che prende l'appuntamento si chiama Valentina, poi c'è Eva, poi c'è l'assistente a poltrona, si chiama... Laura. Elisa, mi pare. E allora la necessità pure. Perché dove va a cambiare, dove va a prendere il figlio? Prima c'era il padre, poi dove va a prendere il figlio e quelli che c'erano non so se li tenevano. Ma dove? A Atena? Quello lì, quello che c'è lì sopra la carica. Sopra? A San Paolo. No, non è lì, no, già. No. Non è lì, è più su dell'Enel. Dietro papà si andava a comprare contatti, era proprio beccato io. Quale? Uno te ne avevo fatto, cosa ne so. Ah, quello lì è quello mio. Quello lì è quello che ci ho io qua. Quello che ci ho messo il tastino io. Sta andando? Quello mi tiene la praticata da 300 euro. No, sono micidiale, a me vanno bene. La grande. La grande già. Sì. Aspetta, mi piglio lo spray, lo so quanto te da giù. Sono brutti perché sono brutti, va, già vanno bene. Io ne ho uno della Intec con due strumenti, un po' luminosi anche gli strumenti, di quelli che hanno il trasformatore interno da 35 ampere. Hai capito qua? Sì, sì, io ho quello della ZG, che pesa un drone, questo me l'ha fatto Claudio, 25 ampere, sto usando quello adesso, sì, qua a casa, vabbè, non ne ho altri. 25 ampere, tanto se ci fa ne faceva uno anche da 50, quello ce l'aveva Tanino, me lo ricordo, uno da 50 ampere, il suo era un trono, era pesante, che cosa va? Ah, era 50 ampere, capito? Quello lì poco a forte. E adesso rifarò questi switch, perché sì, io non ho niente da dire, perché a me solo uno mi ha dato male, ma poi Franco me l'ha aggiustato, mi ha cambiato una resistenza, non me l'ha aggiustato, si spegneva, andava in protezione. Ma quella ragazza che ha perso... Perché era da cosa è andata? Da... Come si chiama? Da... Da Maladusso, quella ragazza che ha perso il bambino a Sassari, in diretta. Ma vero, adesso... Adesso me l'hanno già dato. E cosa ha detto? Allora, aspetta. La Monica, cioè dico cosa c'è scritto. Monica, sì. Allora, ecco la coppia di Sassari, poverini, ingiustizia vera. Con questa che avevano il Green Pass, non gli bastava, volevano il tampone molecolare, così ha perso il bambino dopo 5 anni che cercavano di avere un figlio. Adesso passa guai quello là. Magari l'avrebbero perso lo stesso perché aveva un'emorragia vaginale, non si sa se fosse il feto che fosse morto all'interno, chi lo sa. Però intanto dovevano soccorrerla e controllarla, magari l'emorragia si poteva far male. Ah, un cane poverino morto. Grazie a tutti. Vicini dalle campagne che sono già più di un anno, mettendo i bocconi facendo strage di cani. Si chiamava Bata, aveva 5 anni, un cane corso, cazzo, allucinato, allucinato, poverino. L'hanno ammazzato. E allora? La Sassa. Di puttana. E glielo ritrovano, vabbè. Allora, ci sono cani e cani, ci sono quei cani cattivi. Per esempio, io l'altra volta ero via Pascoli, quel chioschetto della frutta e verdura, no? Ce l'hai presente? Sì, sì, a fianco a quello della casa dell'edicola. Praticamente è proprio quello, sì. Cosa è successo? Che con il cane dico, vado a buttarmi un po' di frutta. C'era quattro signori, c'era un cane. Il cane tuo sai che è cattivo, non sta, di poco non aggancia a dea. L'ho preso a voce, il signore è grande, mio, un ciccione. L'ho preso a voce, butto a coglione, gli ho detto, ma se il cane tuo sai che è così, perché non li metti nella museruola? Perché sono scusa un cazzo. Quindi così non mi aggancia, già, mi ammazza. E che cane era, grosso? Ah, un cane di Italia media, là. Già ci sono quelli lì che se ne fregano, li lasciano soltanto in Italia, anche il pitbull, vicino a casa è pieno di pitbull, ogni tanto ne spunta uno nuovo cuccio. Per carità, sono incazzati, dove va, ma andatevene a fanculo, guarda, non è giocato andato, ma come fare la sloggia? Ma non di cui, ma se c'è un cagnolo piccolino che sei innocuo, cioè se tu cani imbarcato ci vuoi a mangiare l'idea, vero te, quante volte vuoi mangiare, ringrazia, sta ascoltando questa, tu cani va un anno e mezzo, ma un'intelligenza Gianni, guarda, fuori da normale. Lo so, io avevo a chicca così, invece c'è a chicca un cane bianco che tu non hai conosciuto, l'avevo trovato a un dottore un giorno di grandine, io stavo passando col furgone, vedo questo cane che era fatto fuori il cordone, un cuccioletto, piccolino, chiamato, stava gradinata, è venuto vicino al coso, stava salendo nel gradino del furgone, cosa faccio? Mi lo lascia finire, dagli umiliati, dagli umiliati, ho detto Riccardo, e dopo me l'ho portato a casa. E da lì l'ho levato, l'ho fatto grande. Beh, fatta sta che questo qui giocava con i bambini, era, guarda, di un'intelligenza, questo cane, che però rispettoso, se non lo non portavamo sempre con lui, perché allora figli non ne avevo, ero sposato, ma ancora non avevo figli. Ce lo portavamo a portavamo a tutte le parti. Se un giorno dovevamo fare la spesa che non lo potevamo portare, faceva gli spiriti, tipo si cava le sedie, pisciava in terra. Ma ah, questo già. Beh, fate la cuccia. Ma già intelligente lei, guarda. Solo che è sorda. È troppo. Questo roba dei cani si piscia ancora, capito? Spolvizzola. Quando vede cani grandi, grandi, grandi, allora inizia a si cria. Frega paura. Ma poi gli è brava. Beh, vuoi dire? Ti alzo da Gianni, cosa direvi? Io ti ammazzo a te, mi. Sto andando a farmi le feste. Ma con Cristiano è così. No, dai, sono anche se sono maschi, se sono di quelli giocherelloni, tipo barboncini, così, non li fa niente, si mette a giocare. Se però accennano a ringhiare o cose del genere, si incattano. Se sono cani maschi di quelli. Allora si incatta un pesante e rotta quattro zampe. E fatto così, c'è poco da fare. Io lo so, lo lontano, quando mi dicono non lo posso toccare, no, meglio di no, perché se non conosce la gente è meglio che non lo tocchi. Ma è a carattere, è come lui, c'è quello che dà confidenza a tutti, c'è quello che magari se ne sta sulle sue e non vuole nemmeno. Io me ne ricordo uno, quando andava a pescare alle 4 di alle 5 di mattina, così a un po' fuori, allora ero proprio preso dalla pesca. E c'era questo qua, un giorno arrivo, alle 5 di mattina c'era questo qua pescando. Io mi metto a fianco a lui, mi ho detto buongiorno, sai come si fa? Ma vai da tu, con la coda di luce e non mi ha salutato, vabbè, questo vuol dire che non può essere cagato. Ho preso, lanciato, tanto prendo la prima orata, e una. Da cui lancio la braccata, cazzo, ma che tempo lanciare l'altra, cazzo, infatti con chilo dell'altra ne prendo un'altra, questo che ha preso, ha picciato tutti e se ne è andato. Ma ti credo. Cazzo, ma era un tipo di chi si capito che non vogliono essere cagate certe persone, capito? È meglio no. Sono salutato, stavo qua a prendere il c***o, dice come ti dica sì. Ehi, vabbè, come andate a cagare? Io per educazione, quando arrivavo, salutavo, dice, beh, mangiando, sai come si fa? Anche questo qua, ha pigliato il sicchio, un cazzo era fatto le vaine, non c'era manco un pesce dentro il sicchio, c'era l'acqua, ci ha buttato l'acqua e si è avviato. E io ci ho continuato a piccare, una tina era 500 grammi, così, però bellina era. Aspetta un attimo, c'è stato un messaggio. Accuditi, accuditi, aiuto. Adesso di poco, in treti. Mi lo sperco, se mi ascoltavo, stavi no. Cavagava, sempre girendo. Se magari a mettere la corsa subito la lì. Ah, e allora dai. È comprensibile, là. E non vedi, fuori. Ecco, vedi già. E a me già ci sei. Ehi, amiche c'è Cristo. Ciao Cristo. Ma che se non si muove a piombo non lo sento. Ha detto di metterti a piombo se non ti sente. Ma stai arrivando con un Santiago di sì. La radio è 4, va. Non lo senti nulla? No, non arriva niente, nulla. Dove sei, Cristian? Sono a casa mia. Però c'hai questi B da 5 a 7, va questi B, ma c'è movimento. Adesso sei 7 infatti, sei 7 perfetto. Ma senti? No, lo sento. Non so se mi sente lui a me, ma io non lo sento. Ma adesso ho aumentato, per quello te l'ho chiesto. No, non lo sento già, di più ti ha fatto in dubbio. Adesso se passi per cui ha ritirato la cassolina. E allora, te la cogo tutto, non ho problemi, non me lo prendo. Ehi, vabbè. 100%. E invece l'altro non prendi? L'altro quale? E quello che ti sta facendo ascoltare ieri. Ah, boh, non lo so. Non lo so, per il momento no. No, l'ho voluto sentire, non lo ricordavo, quello girava bene, no? Sì, lo stavo ascoltando, va bene. Ma boh, io adesso non mi attirano più, mi attiravano prima quando anche i camionisti ce l'avevano, cosa adesso non sta più trattando nessuno, manco come si chiama? Domenico. Non lo sento più buono, prima entrava sempre quando andava a Umbria, entrava sempre la sera, invece adesso lo sta più facendo sentire, perdonami. No, lo ricordato, non è più entrato, non l'ha più visto, più sentito. E un giorno è venuto a comprare il pesce quando io stavo lavorando in pescheria, dove lavoro io, quando avevo la pescheria, è venuto a prendere il pesce e mi ha detto che oramai ci sono i telefoni, che non è stato più usato, baracchino. Ma ci sono i telefoni, ma i telefoni certi punti non pigliano. Se va nella zona di cosa, verso Sorso lì, non verso Sorso, verso Venivici, quella zona lì, non piglia un cacchio il telefono. Dove non prende? Zona d'ombra, solo, sai che cosa prende? Wind e basta, pigliate non prende. Che dove? Zona di cosa, cosa ti posso dire? Zona di come si chiama? Spiaggia, se sali su sì, scendi in spiaggia, non piglia. Ma io mi trovo bene con l'H mobile, no, non posso dire diversamente, già, di una fesseria. Allora io ho fatto una ricarica da 20 euro, cioè 27 euro mi pare, quasi 3, 29. A settembre, ottobre, novembre, dicevo, gennaio, febbraio e marzo. Io fino a marzo sono coperto. Ah, la fai di colpo così, no, io faccio un mese e carico 5 euro e un mese ne carico 10, faccio così sempre. No, allora io ho 11 euro, quasi 12 euro, non ci arrivo e ci mancano praticamente 20 centesimi ci mancano, arrivano a 12. Allora la prossima ricarica faccio 5, così ne ho 2, poi la prossima ancora 20 euro e così ne ho 5. Comunque, sì, non è più come prima, 15 euro, 18 euro, ma via vai. Cioè, fa la stessa cosa, non è che sia molto conosciuta la Camobile, costa più l'altra, come si chiama, quella della Telecom, quella lì è più conosciuta, però anche la Camobile va bene, perlomeno prende da tutte le parti, io non ho mai avuto problemi. Solo che vabbè, il mio telefono che si interrompe la linea, esce praticamente a tratti e poi si interrompe la linea, non mi sento più. Ed entra anche da solo la pausa. Cioè un telefono nuovo, ancora in garanzia, l'ho portato alla centro assistenza e non hanno fatto un cavolo, niente. Aspetta già, scusa là, prego un clic, c'è un messaggio, ascoltano un messaggio. Ma lo sai che cos'è? Il Redmi 9, il Redmi 9 Pro, cioè non so se vi spiego, è un telefono che costava 300 euro, no 5 euro, Toyota, me l'hanno detto che sono buoni quegli uomini. E beh, cosa ti succede se ti fai la casco, che se non funziona te l'hanno nuovo. Ma bisogna vedere tutta la frase che bisogna fare, oiui. E io, va bene, ciao ciao, buonasera. Eccomi qua già, cazzo. Mi stanno ascoltando un duetto, dai. Aspetta, non li ascolto. Cosa lo posso registrare, no? Faccio la canzone, vado a scaricarla per metterla, diciamo, dove si concorre, dai. E non me la fa scaricare, non la scarica a metà. Oh, che è troppo pieno lì sul telefono, lo so. Poi quel sito. Cosa? Quel sito dove canti tu? Eia, su Starmaker. Starmaker. Lo fa lento. Praticamente la striscia quando carica, no? Prima faccio facciamo tutti così tutti in attugati, dove c'è adesso fa piano, e poi si blocca. Luca! Chi è avanti? Ti stavo chiamando poco fa, quando c'eri a casa? Chi sei? Capita, con la sos. Ciao Fra, Masso ti ascolto Fra oggi, c'ho un po' di quarreva e ti ascolto un bel Masso. Lo so, perché non c'è già appena adesso. Poco fa ti ho fatto un paio di chiamate, Luca non vuoi. Forse ho abbassato il volume, che mi stavo gestando il televisore, dai. Adesso ho finito, mi sono bugiato a farmi due chiacchiere. Capo, dai, ero lì, ho visto che c'era l'antenna. Luca, come hai fatto? Com'è andato il tampone stamattina? Sì, sono negativo, Mattari, sono libero. Ho di nuovo il green pass attivo, tutto a posto, dai. Meno male. Sai non mentre in prigione siamo già fine. Buonasera Franco, buonasera Natalia. Franco è qui. Capo, ciao già, scusa che non ti ho salutato poco fa. Ciao anche a Natalino. Niente, sono entrato solo così, lo lascio scaldare un po' là. Ma sta arrivando presto, 9:10 qua. Capo, cosa non mi ascolta giù mai. Avanti Natalino. Ciao, ben sentito Franco. E adesso tocca anche Gianni. Ok, io ero in ascolto da e sono voluto entrare a salutarvi. Beh, hai fatto bene, ti salutiamo anche noi. Ebbene, Natali, per la bella, nulla è saputo. No, ancora no. Ho parecchie cose da fare prima, più importanti dell'antenna. L'antenna è un hobby. Beh, certamente che ci sono le priorità nelle cose. Ma visto che la dovevo impiattare, te l'ho chiesto per questo. Beh, aggiungi un po' di cosa. Adesso quel cardiologo Pirla, lo sai cosa ha fatto? Non mi ha detto delle urine. Dovevo fare le analisi del sangue oggi. E adesso le urine mi tocca portarle domani. E mi tocca esserci un'altra buccia. Alla veloce li fai? Ma non ci vado più. Mi hanno disgustato oggi. Ma hai pagato? No, negativo. Andrò in Viale Umberto. Non ci vado più lì. Avevo bisogno di misurarmi la glicemia, non me l'hanno fatta misurare. Vabbè, ho detto già me la misuro al bar, invece al bar non ho trovato parcheggio e sono venuto direttamente qua, perché mi dovevo prendere la pastiglia del diabete e fare colazione, capito? E basta portare in bagno, non ce l'avevi la macchinetta? No, a futtigini già, domani le bocce d'urine e le bongura grosse. La gentilezza non è data da dire a tali che è buco di fa, ognuno guarda il suo interesse, le sue cose. Ma vabbè, riprendi Cuccariello. E allora Franco, dimmi conta, sa, questa vita da pensionati com'è? Bella Gianni, bella, meglio di prima. E a te grido. Ma non senti dei vuoti, non ti manca qualcosa, niente. Ma diciamo che sì, diciamo che inizialmente non mi mancava niente, poi ecco, adesso ha cominciato a mancarmi qualcosa, perché nel lavoro era un routine diverso, però alla fine non è che pesa quello, non va bene così. Magari anche io, i colleghi, le colleghe, specialmente le colleghe, scherzavo, facevo, quindi non ti passava la giornata così anche lavorando? Sì, quello sì, i colleghi, vabbè già li vedo lo stesso, però lavorando era diverso. Ma sarà tutto giambato, io sono sceso dove lavoravo, ho cambiato tutto, non c'è più magazziniere, lo mandano solo un commesso che c'è, quando arriva la roba lo mandano a scaricare e basta, con i magazzini qui se lo vede più. Tutto e anche da noi dice che ha cambiato tutto, come ha detto il mio collega, che adesso hanno preso altri lavori e non vogliono assumere persone, noi ce ne siamo andati via i sette, siamo andati via, Sono tre o quattro che hanno assunto, non l'hanno assunto altro nessuno, stanno facendo fare a certi anche doppi turni. Sfruttando le persone, così. E allora ti hanno da vepra. E a voglia! Giù adesso non è più come prima quando c'ero io, adesso dice che è diventato, a parte del coso del Covid, è diventata ancora più severa la situazione. Adesso se sbagli paghi, non c'è niente da fare. La società Eni ti fa il biglietto di espulsione direttamente. Casino. Io mi ricordo quando io andavo a prendere i vassoi per la macelleria lì, come cavolo si chiama? Che fa il vassoi, come si chiama? Che c'è di fronte a voi? Sì, sì, ho capito, la vabbè, mi sta sfuggita pure a me, è andata in meglio, è perché gli hanno cambiato di nuovo nome, gli hanno cambiato a quella lì, è di fronte a noi, dove lavoravo io, al magazzino prima dell'incrucio. Esatto. Sì, era Tunis Espansi, però poi ha cambiato nome che non mi ricordo adesso cos'è. Perché adesso non sono più i vecchi parroni che c'erano prima, adesso sono tutta altra gente, mi sembra sono francesi adesso. Fatti un conto. Ma sta andando e chiudendo sempre di più le fabbriche, ce ne sono mai chiusi. Sì, in effetti sì. In effetti la Tunis Espansi, quando era Tunis Espansi, quella lì avevano aperto anche l'altro magazzino, l'altra società dove c'erano le fibre, in fondo, avevano aperto, dove fanno i pannelli pulizioni grossi e via. Lì ha chiuso, lì i padroni hanno chiuso tutto quanto, hanno preso in mano tutti gli operai. Gli operai gli hanno detto, i padroni gli hanno detto agli operai, dice voi vi lasciate la liquidazione, lasciate tutti, è diventate tutti succi, tutti padroni, e così hanno fatto, e adesso sono tutti padroni. Ho capito, avanti. Aspetta un attimo già. Eccomi qua, già, bisogna venire messo, andiamo al telefono, con gran parte di mangiare, mi ha rotto le palle, guarda, ora metto il telefono WhatsApp, mi ha rotto le palle. Ci sei già? Andiamo a vedere questo telefono Oppo, qual è il migliore, e me lo voglio prendere, perché questo qua, quando mi telefono, si sta rompendo sempre la linea, un casino. Ma cosa Oppo, io te lo sconsiglio, poi fa un ti piace. Ci sono tanti Samsung belli, carini, ce l'ha 12, è carino come telefono, è grandetto, a te ti piace grande, no? Eia, ho lo schermo che si vede bene. Ma Oppo dice che costano poco, 140 euro, 150, allora non è che siano molto cari, capito? Tu punta sulla A12, vai, dice, ma fa vedere la A12, vedere che ti piace, è un bel telefono, c'è un amico, un vicino di casa, funziona bene, se non costa, forse intorno ai 140, 150, 64 giga di RAM, 4 giga di RAM e 64 di ROM. A me mi interessa anche tu di una bella batteria, perché ho carico col telefono, quindi mi deve durare un bella batteria. Questo qui dura 2 giorni la batteria, è buonissima la batteria di questo telefono, 2 giorni dura. Secondo giorno c'è il 50%, lo uso meglio il telefono, vado su internet, vado su TikTok, vado su Instagram, vado su Facebook, faccio il giro di tutto là. Sì, vabbè, questo qua c'è non mi dura, vabbè, c'ha 2 anni il telefono. E questo qua quanto ti credi che abbia? Questo qui c'ha lo stesso 2 anni. E dura, perché io la carico quando è giusto caricata, se no non è carica. Se è al 50% la lo metto in carica, lo lascio il giorno dopo oppure lo carico il giorno dopo. Mi ha visto un coso, si chiama un... sono un lupo, televisione, sì, che ciuccio, eh? 15 quando era. Dipende, non si è fatto sentire. Oggi è lunedì, domani, e poi faccio la... Basta! Faccio la cosa, la... lo segnalo su eBay. E cosa è ordinato? Un display di un J5. Non ho capito. Un display di un J5. E non te l'hanno mandato? Guarda, ma come ho detto, va. La carta prosegue con la versione di carica. Allora, spedito, oggi l'ha spedito, da. Ne ma già inteso, già, ma l'ha spedito, a posto. Va bene, seconda mano? No, nuovo, anche originale. Ma io sempre non comprerò più nulla. Da quando mi hanno rubato 200 euro, non li voglio più sapere. Prima ero sempre lì a controllare quello che mi piaceva, mi pigliava. Ma non mi fido più da. Avanti, Franco. Su eBay bisogna stare un bel attenti, bisogna stare, Gianni, è un casino. Io ho comprato un trapano, un abitatore di quelli per le ruote della macchina, bolloni. E io l'ho comprato in Italia e invece mi è arrivato da Vula, mi è arrivato. E questo qua poi non c'era più l'indirizzo, nulla, anonimo. E mi è arrivato che non serve a niente, che è roba usata anche, mi hanno mandato. E la giubbaia di Mazenzia, ce l'ho qua ma non va bene. Non funziona? Sì, funziona, però quando vai a schiacciare per svitare, parte per un po' e poi si blocca, si spegne del tutto. Non ce la fa.